Oh, come on, Bill. They're the new kids. Don't pick on them. They're so good. They're so clean cut. And they're such a good image for the children. Fuck that. When did mediocrity and banality become a good image for your children? I want my children to listen to people who fucking rocked. I don't care if they died in puddles of their own vomit. I want someone who plays from his fucking heart. Pensieri ma quattro note per viaggiare con la mente verso terre nude ignote. Flusso di coscienza, incomprensione, indifferenza, una parvenza di speranza. Io che resto senza ma in partenza. Sai che perdo facilmente anche se faccio il paraculo. Mi conosci, sono rapido e insicuro. Volo sul nido di un cuculo. Porto avanti il mio carretto come un mulo. Sì, ma tengo duro, questo è sicuro. Porto avanti una bandiera nera sopra un vascello pirata. Come cocainomani cerchiamo polvere di fata. Fuori allenamento, sono goffo un po' impazzato. Guardo fuori dal mio palmo e resto fermo e senza fiato. Ho imparato a controllarmi, ho educato le parole. La fiducia puzza come merda calpestata dalle suole. È una mole di fatica che mi schiaccia, mi minaccia, mi sprona a riversarmi sulla traccia ed ora. La notte è fredda ancora, la morte è stanca e sola. Nessun petalo cadrà danzando sopra le lenzuola. La notte è fredda ancora, la morte è stanca e sola. Nessun petalo cadrà danzando sopra le lenzuola. E bagna le lenzuola con le lacrime di notte. Asciugati le lacrime, rinfrescati le gote. Perditi nel buio delle grotte che ti suonano un po' vuote nelle orecchie quattro note. Su quattro note puoi sentirne il suo richiamo estemporaneo. Quotidiano viverne cercando la luce di un faro. È come un marinaio, navigo il presagio alla ricerca dell'itinerario vago. Di giorno in giorno nei mortali momentaneo, istante raro. Seguo la scia per l'Eldorado perché è spontaneo. Traccio la rotta su cui gravo il calamaio in primo grado. Chiavo per il plagio della mano. Un suo contagio è necessario a non restare appese al caso. Vento contrario dove andiamo nell'ordinario. Un assoluto buio ignaro, un nubifragio controllaggio per non ridurci a stato brado. Grato del fatto ereditario in cui ricavo sano a grado. Un chiaro grazie ad ogni avo intermediario che tramandò attraverso un brano suo creato letterario. Trovai quel lago nel pagliaio che ora a mezz'ora. La notte è fredda ancora, la morte è stanca e sola. Nessun petalo cadrà danzando sopra le lenzuola. La notte è fredda ancora, la morte è stanca e sola. Nessun petalo cadrà danzando sopra le lenzuola. La notte è fredda ancora, la morte è stanca e sola. Nessun petalo cadrà danzando sopra le lenzuola. La notte è fredda ancora, la morte è stanca e sola. E nessun petalo cadrà danzando sopra le lenzuola. E bagna le lenzuola con le lacrime di notte. Asciugati le lacrime, rinfrescati le gote. Perditi nel buio delle grotte che t'inghiotte. Suonano un po' vuote nelle orecchie quattro note. Bagna le lenzuola con le lacrime di notte. Asciugati le lacrime, rinfrescati le gote. Perditi nel buio delle grotte che t'inghiotte. Suonano un po' vuote nelle orecchie quattro note.